Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Seconda informazione di servizio è quella che riguarda il mio blog, Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore. La terza ed ultima è quella che riguarda la possibilità di scaricare e sentire da internet sul nostro sito www.radio24.it non soltanto le puntate della mia trasmissione, ma ogni puntata di qualunque trasmissione voi abbiate perso. Una piccola considerazione personale: recentemente molti radioascoltatori ci hanno spedito delle interessanti mail con casi sì particolari, ma che riguardano una moltitudine di persone. Spesso, diceva una persona molto molto molto più importante di me, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ebbene, quando noi contattiamo le parti coinvolte dai nostri radioascoltatori per disservizi che lamentano, guarda caso, miracolosamente questi disservizi muoiono il giorno stesso in cui noi contattiamo la controparte. Allora, io invito tutti i radioascoltatori che ci segnalano le loro vicende e vicissitudini personali poi a tener fede a quello che denunciano, e quindi comunque di venire in trasmissione, perché non è un buon segno quello per il quale si risolve un problema solo perché un giornalista chiama. Questa per me non è democrazia. Un paese civile è tale quando tutte le regole e tutti i diritti vengono rispettati. E proprio di questo oggi parliamo. Parliamo con una bella storia che arriva da Trento. Cosa accade a Trento? All'Università di Trento, famosissima e tra le migliori nel nostro paese, accade che il rettore, il professor Davide Bassi, io sintetizzo e volgarizzo, poi sentiremo la sua voce, insorge contro un ricercatore che fino a quel momento aveva fatto poco o nulla, e quindi dice, in estrema sintesi, per piacere toglietelo di torno. Accade invece che questa cacciata di questo ricercatore non avviene, e in realtà si giunge ad una sospensione. Insomma, parliamo di fannulloni nella pubblica amministrazione a livelli altissimi, ovviamente, perché poi la ricerca è il futuro del nostro paese, ammesso non concesso che abbiamo un futuro. Ancora ieri il Messaggero riportava in prima pagina, e ancora oggi il Messaggero di Roma, l'importanza di avere ricercatori. Allora, per parlare di questa vicenda io ho chiamato con noi a interloquire proprio il magnifico rettore dell'Ateneo Trentino, Davide Bassi. Buongiorno professor Bassi. Buongiorno. E il professor Enzo Siviero, che è il vicepresidente del Consiglio Universitario Nazionale, con un brutto acronimo si dice CUN. Buongiorno Siviero. Buongiorno a tutti. Allora professor Bassi, partiamo da lei. Mi corregga in ciò che ho sbagliato. Io ho sintetizzato e volgarizzato, ho detto toglietemelo di torno. Racconti lei la sua versione. Ma io non voglio parlare del caso personale, perché quello ha i suoi spazi e non sono certamente quelli della radio. Il problema credo che sia un problema generale. Sappiamo che dentro l'università ci sono persone che si approfittano dei gradi di libertà che il sistema offre e che fanno questo sostanzialmente a scapito degli altri. Sono una minoranza, va detto, però sono anche sostanzialmente certi che di non poter essere puniti, e questo certamente è un pessimo messaggio, soprattutto in un momento in cui ai giovani dobbiamo dire che spesso non c'è posto per loro nelle nostre università. Esattamente, lei ha perfettamente ragione nel dire che il caso non è personale, infatti del nome e del cognome di questa persona interessa fino ad un certo punto, anche se è un ricercatore di diritto romano, però una cosa mi ha colpito che questa persona era con voi dal 1994. Allora le chiedo, il trascorrere del tempo può portare, purtroppo, come spesso accade sia nel pubblico che nel privato, pian piano a lasciare perdere il lavoro, a considerarla una routine, un'abitudine, e quindi tanto chi se ne accorge che io lavoro o non lavoro? Se fosse già una routine, un'abitudine, sarebbe già un livello positivo rispetto al caso specifico, anche se ho detto che non volevo parlarne. No, ma andiamo oltre il caso specifico. Nella carriera di professione delle persone ci possono essere dei momenti, per vari motivi personali, salute, eccetera, in cui i termini di produttività possono salire o scendere. Questo è normale in tutte le organizzazioni. Anche nelle tanto famose università americane sappiamo che c'è una fascia di docenti non particolarmente produttivi. Il problema è cosa si fa quando si verificano queste situazioni. Ecco, ma lei che cosa ha fatto? Lei ha chiesto il licenziamento, ma questo non è arrivato. Ma noi abbiamo più volte tentato, devo dire che non è l'unico caso che io ho trattato, e in altri casi si sono spaventati e hanno dato le dimissioni spontaneamente, quindi la procedura si è chiusa prima ancora di cominciare. Purtroppo le procedure che noi abbiamo sono procedure piuttosto complicate, lunghe, faraginose. Io ricordo che comunque questo è il paese che ha cacciato Benedetto Croce per le sue idee politiche e ha costretto Enrico Fermi alla fuga per motivi razziali, quindi è giusto che ci siano delle garanzie. Quindi certo, ma ci mancherebbe altro. Di voler andare a fare l'ammazza 7, ci vuole prudenza, ci vogliono garanzie, però ci vorrebbe anche, come dire, una certezza della pena quando i comportamenti sono veramente al limite. Assolutamente d'accordo, d'accordo con lei. Allora adesso vediamo un pochettino, non dico l'altra parte della medaglia, ma in ogni caso sentiamo la voce del Consiglio Universitario Nazionale, sul cui tavolo arrivano poi le pratiche delle persone che ricevono delle sollecitazioni, dei rimproveri, dei provvedimenti disciplinari richiesti, insomma diciamo così un organo di disciplina o di autodisciplina. Professor Siviero, come commenta lei questa vicenda? Ma io direi preliminarmente che sono pienamente d'accordo con il rettore Bassi. Non c'è dubbio che c'è una situazione nella quale troppi colleghi, per fortuna sono una minoranza abbastanza contenuta, non hanno dei comportamenti adeguati a quello che è l'aspettativa del sistema. C'è da dire però che io presiedo il collegio di disciplina per delega del presidente Andrea Lenzi, lo presiedo da quasi 3 anni. Sono dei casi che arrivano piuttosto complicati, altri un pochino più semplici, ma sono pochi, quindi io a mia volta faccio una denuncia: 20 casi l'anno per un sistema universitario che ha 60.000 addetti tra ordinari, associati e ricercatori mi sembrano veramente una minoranza. Ecco, le faccio però una domanda cattiva: non arrivano perché c'è poi un corporativismo da parte di chi si difende e si autotutela, o non arrivano perché effettivamente non ci sono poi tanti casi da affrontare? Io voglio essere cattivo fino in fondo, propenderei un po' per la prima ipotesi. Guardi, io sono convinto che un certo lassismo c'è, è indiscutibile che perseguire il collega è sempre piuttosto difficile, perché ci sono delle controindicazioni, ci sono dei lassismi complessivi, c'è, come dire, un laissez-faire che non aiuta il sistema, certamente. Certo. C'è bisogno forse di essere un momentino più puntuali, del rispetto anche puntuale della legge, per esempio se c'è da fare la relazione triennale che verrà fatta, se non viene fatta che venga perseguita. C'è, come dire, una situazione complessiva in cui si lascia un pochino troppo che le cose camminino tanto. Tanto va bene lo stesso, come diceva lei prima, certo, della certezza quasi dell'impunità. Questo non va bene e noi siamo anche molto preoccupati. Per di più le istruttorie spesso sono un pochino lacunose, non per mancanza di volontà, ma perché complessivamente le procedure, che sono un po' complicate, è vero, non vengono pienamente rispettate. E noi poi, nella decisione che il collegio di disciplina deve prendere, siamo costretti a muoverci sul filo, diciamo, di un aspetto più formale che sostanziale. Certo, ma è per questo che ad esempio qui, a fronte di una sanzione che valeva 100 il licenziamento, voi avete deciso una sanzione che vale forse 5 in questa scala, diciamo così, di punibilità, vale a dire soltanto la sospensione per 20 giorni. E anche questa è una delle cause, cioè la lacunosità, la difficoltà poi di queste istruttorie e quindi del vostro ruolo. No, guardi, noi abbiamo ritenuto di fare una valutazione complessiva, cioè ci sembrava che, pur avendo accertato che il comportamento del soggetto non era all'altezza delle aspettative, ci fossero, come dire, delle attenuanti, un certo tentativo di riportarsi nella sua situazione iniziale e così via, per cui abbiamo considerato alcune attenuanti. Le dirò però che dare un giorno o 20 giorni o 3 mesi non cambia moltissimo. No, appunto, infatti. Gli effetti complessivi sono piuttosto pesanti, interdizione all'attività e così via. Arrivare alla destituzione in questa fase ci è sembrato una esagerazione complessiva, anche perché c'erano altre componenti che sono intervenute e si leggevano all'interno che, diciamo, non erano completamente sfavorevoli al soggetto. Ecco, quindi c'è una condizione particolare che è stata tenuta in conto, ma non vorrei entrare nel merito, penso che all'ascoltatore interessa il principio. Certo. Il principio è che bisogna essere certi che le persone vengano punite nel momento in cui non si comportano in modo adeguato, però questo comporta anche una identificazione delle loro attività e dei loro passaggi formalmente ineccepibili. Purtroppo nel caso dei ricercatori in l'Italia è un soggetto che non ha moltissimi obblighi, allora, ha pochini, e secondo me andrebbero invece un momentino più pianificati. Codificati meglio. Allora io ringrazio il professor Siviero per il suo intervento, così come ringrazio ovviamente il rettore dell'Ateneo di Trento, professor Davide Bassi. Quindi faccio un invito da mio, concludendo un pochettino questa chiacchierata, magari istruiamo un po' meglio le pratiche per queste persone che lavorano meno di quanto dovrebbero, così è più facile anche per chi deve poi andare lì a dire l'ultima parola, decidere il meglio per il bene della ricerca, per il bene dell'università italiana, il che vuol dire, ricordiamocelo sempre, per il bene di questo paese che, se non punta tutte le sue carte sulla formazione, la scienza e la conoscenza, non ne esce dalla situazione in cui si trova. Grazie in regia Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.